Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, intanto voglio ricordare agli amici che ci ascoltano che dalla settimana prossima cambieremo un po' sia gli orari di messa in onda che anche i giorni con l'Adico, perché cambia il palinsesto, quindi con te ci ritroveremo al martedì e al venerdì, se non sbaglio, in un orario che va tra le 12 e le 13 e poi anche in replica al pomeriggio. Allora, intanto voglio parlare subito dell'argomento di oggi. Perché? Perché ci sono sempre più anziani e disabili in difficoltà e quindi sempre più persone si rivolgono a uno sportello che voi dell'Adico avete predisposto. E giustamente siamo qui per parlare di uno sportello che l'Adico ha istituito circa un paio d'anni fa, denominato amministratore di sostegno, proprio perché nel 2016 c'è stato un boom di attività che il nostro sportello ha gestito quest'anno. E si tratta di un'attività che nell'occasione appunto di oggi volevo parlare con te, perché ci siamo resi conto che poche persone hanno ben chiaro questa figura dell'amministratore di sostegno e purtroppo scoprono l'importanza di questa figura solamente quando ne hanno bisogno. Sì. E visto un po' l'attività che ha svolto in questo periodo, visto che non è un argomento prettamente consumeristico, ma è un'iniziativa denominata proprio a valenza sociale, volevo proprio fare due parole con te. Ecco, io già qualcosa conosco, cioè so che cos'è un amministratore di sostegno, è qualcuno insomma che ha la capacità di intendere e di volere, che aiuta magari un parente che non è più in questa condizione. Sì, sostanzialmente è così, però se vogliamo dare un'esatta definizione, dobbiamo renderci conto che l'amministratore di sostegno di solito è pensato per tutelare quelle persone che sono ancora capaci di intendere e di volere, ma sono prive della necessaria autonomia. Infatti molte volte invece le persone aspettano la fase successiva, che è quella che hai detto tu, ma in realtà scopriamo nel caso poi particolare tipo di persone anziane che sono ricoverate nelle case di riposo o malati che non si possono più muovere da casa e magari andare alla posta, ritirare la pensione o pagare le bollette, o altre persone che magari versano in condizioni diciamo di disagio per cui riescono a fatica a doversi muovere autonomamente, la necessità quindi di nominare una persona che molte volte, questa persona anche per lo più delle volte rientra un po' nella sfera familiare, ma che è necessaria per poter svolgere un po' le incombenze quotidiane. Certamente sempre con il principio che deve farlo in un'ottica di salvaguardia di quelli che sono gli interessi della persona, in questo caso che non può muoversi. Ecco, a me vengono in mente per esempio i malati di Alzheimer, di demenza senile, che hanno delle difficoltà oggettive e che poi perdono la lucidità anche del valore del denaro, non sanno più fare tante cose banalissime, quindi tantomeno non sanno pagare una bolletta, capire il significato di determinate cose. Certo, questo siamo già a uno stadio avanzato, ma ci sono anche tanti casi di persone che invece non si possono muovere, ma magari sono ancora lucidi. Certo. Lucide. Però in tutte queste situazioni comunque ricordiamoci che l'amministratore deve essere nominato sempre da un giudice tutelare e normalmente viene sempre scelto, come detto, in un ambito familiare, però qualora non ci debba essere comunque un conflitto di familiari in corso, per cui ci deve essere un po' la consapevolezza e la coscienza da parte di tutti che insomma questa deve essere una persona affidata e che salvaguarda un po' gli interessi, chiamiamolo, del paziente che mi piace di più. Certamente può capitare che il giudice, oltre all'amministratore, possa anche includere una figura di sostegno per farsi un po' coadiuvare da un idoneo professionista, pensiamo magari a un commercialista o un medico o un avvocato nell'adempimento di alcuni compiti. Però dobbiamo anche comunicare ai cittadini che insomma questo sportello è a disposizione e consultabile gratuitamente da parte di tutti i soci, proprio per capire se e come poter accedere e disbrigare queste pratiche, perché anche se sembra una cosa abbastanza semplice, come detto, poi capita che nei momenti di bisogno non ne conosciamo l'esistenza, e quindi qua poi tutte le pratiche si complicano e c'è un gran dispendio di tempo, di energie e di costi per riuscirmi a capo a tante situazioni che, se gestite prima, possono evitare di presentarsi. Quindi è buona cosa muoversi per tempo quando ci sono delle situazioni difficili e magari chiedere lumi proprio anche al vostro sportello, che in questo caso può aiutare a indirizzare i primi passi per diventare, insomma, un amministratore di sostegno, no? Sì, ecco, Francesco, ricordiamo che il giudice normalmente cerca sempre di nominare una persona che faccia parte della sfera familiare, ma capitano anche delle situazioni in cui, in presenza di conflitti familiari, il giudice possa nominare anche una persona estranea a quella che è un po' la sfera della famiglia, dei parenti, per cui, ecco, situazioni che non bisogna mai dare per scontato nulla, ma che è bene perderci un po' di tempo, secondo me, prima rispetto che a dopo. Certo, quindi la cosa che possiamo dire è, se siete in queste condizioni, se avete qualche parente che non è più proprio lucido, non è proprio più in grado di svolgere le normali funzioni da solo, preoccupatevi, insomma, perché potrebbe essere utile anche conoscere questa figura dell'amministratore di sostegno. Chiamate l'Adico, c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it dove trovate i contatti telefonici e quindi potete chiedere lumi. Io a questo punto intanto ti ringrazio, Carlo, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio te, Francesco, e colgo l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.